Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR, 5 catalogo dei figliuoli di Ruben, e di Gad, e della mezza tribù di Manasse, e dei luoghi, dove abitarono, e come abbatterono gli Agareni, ma finalmente per la loro idolatria furono condotti in schiavitù dagli Assiri. Figliuolo di Ruben primogenito di Israele, però che egli fu suo primogenito, ma avendo violato il talamo del padre suo. La sua primogenitura fu data ai figliuoli di Giuseppe figliuolo di Israele, ed egli non fu considerato come primogenito. Or Giuda era il più forte di tutti i fratelli, e dalla stirpe di lui sono discesi dei principi, ma la primogenitura fu riservata a Giuseppe. Figliuoli adunque di Ruben primogenito di Israele, Enoch, e Failu, Esron, e Carmi. Di Gioel fu figliuolo Samia, il quale fu padre di Gog, il quale fu padre di Semei. Di questo fu figliuolo Mica, di Mica fu figliuolo Reia, di Reia fu figliuolo Bal. Di questo fu figliuolo Bera, il quale fu uno dei principi della tribù di Ruben, e fu menato in schiavitù da Telgatfalnasar re degli Assiri. I suoi fratelli, e tutta la sua consorteria, quando se ne fece il novero per famiglie, ebbero per principi Jeiel, e Zaccaria. Baia figliuolo di Azaz, figliuolo di Samma, figliuolo di Gioel, abitò in Aroer, e sino a Nebo, e Bilmeon. E abitò anche verso l'oriente sino all'entrar del deserto, e al fiume Eufrate, però che egli non possedevano gran quantità di bestiami nella terra di Galad. E regnando Sol, fecer guerra agli Agarei, e li sconfissero, e occuparono le tende, nelle quali questi abitavano in tutto il paese, che è all'oriente di Galad. E i figliuoli di Gad abitavano di rimpetto a loro nella terra di Basan sino a Selca. Gioel era il capo, e Safan avea il secondo posto. Yanai poi, e Safat in Basan. I loro fratelli distinti nelle loro famiglie, e casate furono sette, Michael, e Mosollam, e Sebe, e Iorai, e Yacan, e Zie, ed Eber. Questi furono figliuoli di Abiail, figliuolo di Uri, figliuolo di Yara, figliuolo di Galad, figliuolo di Michael, figliuolo di Esesi, figliuolo di Getto, figliuolo di Buz. Loro fratelli furono ancora i figliuoli di Abdiel, figliuolo di Guni, i quali furono principi nelle loro famiglie, e casate. E abitarono in Galad, e in Basan, e nei villaggi all'intorno, e in tutti i borghi di Saron sino ai confini. Tutti questi furono annoverati a tempo di Jotan re di Giuda, e a tempo di Geroboam re di Israele. I figliuoli di Ruben, e di Gad, e della mezza tribù di Manasse, uomini guerrieri, che portavano scudo, e spada, e maneggiavano l'arco, sperimentati alla guerra, erano 44.760, quando andavano a combattere. Ebbero guerra con gli Agarei, a quali prestaron soccorso Gl i Turei con Chek di Nafis, e di Nodab. Ed essi sconfissero gli Agarei con tutti quelli, che erano in loro aiuto, perché nel combattere invocarono Dio, ed egli gli esaudì, perché avean creduto in lui. E si impadronirono di tutto il loro, di 50.000 cammelli, di 250.000 pecore, e di 2.000 asini, e di 100.000 prigionieri. E molti morirono delle loro ferite, però che fu grande battaglia. Ed egli no abitarono nel luogo di quelli sino alla trasmigrazione. Parimente i figliuoli della mezza tribù di Manasse occuparono le terre, che sono dai confini di Basan sino a Baal Hermon, e Sunir, e la montagna di Hermon, perché erano in gran numero. E i principi delle loro famiglie furono Eper, e Iesi, ed Eliei, ed Eznel, e Geremia, e Odoia, e Gediel, uomini fortissimi, e potenti, e capi di gran rinomanza nelle loro famiglie. Ma egli non abbandonarono il Dio dei padri loro, e peccarono per amore degli dei di quelle nazioni, le quali erano state distrutte da Dio alla loro venuta. Ma il Dio di Israele mosse l'animo di Ful re degli Assiri, e di Telgatfalnasar re di Assur, e trasportò Ruben, e Gad, e la mezza tribù di Manasse alla Ela, e ad Abor, e ad Ara sul fiume Gozan, dove sono anche in oggi. Note, 5,2, Or Giuda era il più forte e ci. Ruben essendo decaduto dai diritti di primogenito, che è la ragione, per cui dal sacro storico non è stato egli nominato in primo luogo con la sua discendenza in questa genealogia, benché egli fosse il maggiorato di Giacobbe, la primogenitura quanto alla doppia porzione la ebbe Giuseppe, quanto alla preminenza la ebbe Giuda la di cui tribù fu sempre considerata come la prima di tutte, e da lei vennero i re da Davide sino alla cattività, e da lei venne il re dei regi, il Messia. 5,6 Beera. Il quale fu uno dei principi, e fu menato in schiavitù e Citel Gatfal Nasar menò in schiavitù le tribù di Ruben e di Gad, e la mezza tribù di Manasse e Neftali e Zabulon. Vedi il. Regione 15. 5,10 Fecero guerra agli Agarei. Arabi detti così da Agar, e Ismaeliti da Ismaele figliuolo di Agar. 5,12. Yanai. E Safat in Basan. Abitarono in Basan, ovvero erano principi tra i figliuoli di Gad abitanti nel paese di Basan. 5,17. Tutti questi furono numerati. Vale a dire le loro famiglie, i loro discendenti non registrati né censi fatti in due differenti tempi sotto Jotam re di Giuda e sotto Geroboam re di Israele. 5,10. GL Iturei. L'Iturea è una lunga striscia di paese alle falde del Libano dal Giordano in là verso occidente. 5,22. Sino alla trasmigrazione. Sino che furon trasportali nella Siria, come è detto, V6. 5,26. Mosse l'animo di lei. E di Telgatfal Nasar re di Assur. E ci ful portò via solamente le ricchezze del paese a tempo di Manaem re di Israele. 4 Regione 15. 19,20. Telgatfal Nasar di poi menò in schiavitù Ruben, Gad, Neftali e la mezza tribù di Manasse.